Suor Lorenza non sapeva di rinunciare. Pensava anzi che fosse un egoismo vivere la vita di una sola famiglia piuttosto che avere ogni giorno un nuovo contatto, un nuovo compito. Bisogna molto pregare, ma la preghiera non ha un'azione immediata, per questo non poteva soddisfarla. La pioggia scrosciava, batteva i vetri con disordinata violenza. Suor Lorenza avrebbe voluto tornare al suo paese, unire la propria attesa a quella delle donne che hanno la gente in mare. Ormai per lei nessuno più parte, nessuno più torna. Non conosce ancora una ragazza che da 2 giorni è arrivata al collegio. Impazzirà, impazzirà! La pioggia l'opprimeva, le tende bianche del letto erano soffocanti. Accese il lume. Sulla facciata buia del cortile s'aprì l'occhio giallo della sua finestra. L'altro occhio giallo che vegliava era la finestra di Silvia. Il mattino seguente, alle 10, avrebbe discusso la tesi. Le compagne l'avevano lasciata con un abbraccio e lei avrebbe voluto supplicarle: perché mi lasciate sola? Forse fallirò come Xenia. Ma non le avrebbero potuto dare aiuto, come non ne avevano dato a Xenia. Non aveva che poche ore avanti a sé ormai, superflue, una goccia in un vaso colmo. Va a dormire piuttosto, le aveva consigliato Anna. A che scopo andare a dormire? Se appena avesse trovato un po' di sonno, avrebbe sognato la grande aula parata di verde nella quale era entrata qualche volta per assistere alla tesi di una compagna. Si sarebbe detta, anche dormendo: entro, faccio il saluto romano, poi siedo. Quante volte nel pensiero aveva spostato la sedia con la mano? Apro la cartella della tesi, ma che l'apro a fare? So tutto a memoria. Guardo la commissione, aspetto. Nel fondo dell'aula c'è il busto del re. Le voci partono di lì sotto. Quale professore avrebbe parlato per primo? Trecca? Aveva l'incubo che la voce non riuscisse a uscirle dalla gola. Perché non risponde, signorina Custo? E lei avrebbe voluto parlare. Le parole erano pronte nel petto, sapeva tutto, ma non riusciva ad aprire la bocca. Perché non risponde, signorina Custo? No, non poteva, non poteva. Nel pomeriggio Belluzzi le aveva posato una mano sulla spalla per rassicurarla. Stia tranquilla, è una cosa perfetta, molto più di una tesi. Ma da qualche tempo non era più lui. Era mutato. Silvia sentiva qualcosa di nuovo nella casa che a lei sfuggiva. La signora Dora aveva sempre evitato di trovarsi sola con lei. Non era morta, stava bene e ingrassava. Quando le compagne vennero a prenderla al mattino, la trovarono già pronta, odorosa di sapone, i capelli più tirati del consueto. Indossava un vestito di seta nera che le dava un'aria di festa. Sorrideva, impacciata, e le altre non osavano parlarle allo stesso modo degli altri giorni. Coraggio, le dicevano, sei pronta? Come quando si vanno a prendere i congiunti di un defunto per accompagnarli al funerale. Silvia guardò dalla finestra il grigio mattino, come se dovesse vederlo per l'ultima volta, poi prese la cartella, vi ripose il fascicolo della tesi. Le compagne, il cappello in testa, la fissavano quasi con rispetto, anche le loro voci erano sommesse. Andiamo, disse decisa Augusta. Silvia avrebbe voluto dire: aspettiamo ancora un po', non avviarsi, non incominciare la pericolosa avventura. E invece capì che ormai non c'era scampo, bisognava andare. Chiudendo la porta, pensò: quando tornerò quassù, tutto sarà fatto. Scesero la scala in silenzio, scalpicciavano i loro passi sul marmo. Anna la teneva sotto braccio come per sorreggerla. Erano tutte piene di premura e lei lasciava fare senza ribellarsi. Emanuela voleva portarle la cartella. No, grazie, la cartella la porto io. Prese nel gruppo il posto di personaggia principale e uscirono. Le suore e le altre compagne, vedendola passare, la guardavano con occhi impietositi, le facevano un cenno della mano, un sorriso. Per la strada camminavano in fretta. Silvia appariva preoccupata e le altre dicevano che si sa, quello è un brutto momento, ma poi passa e ci si sente liberate. I 4 anni stanno tutti in quel minuto. Accanto a loro la gente passava senza notarle. Un gruppo di ragazze che va a scuola, niente di più. Silvia pensava che per gli altri forse questo suo grande giorno era un giorno qualunque. Persone entrano, escono dai negozi, vanno a spasso, passa il tram. Niente di speciale scuote l'andamento delle cose. Anche Xenia è passata di qui. La tesi è andata male, 4 anni di fatica perduti e nessuno intuiva questo. Era una ragazza che tornava da scuola. E forse la donna che sedeva accanto a lei nel tram era felice perché aspettava un figlio. Che mistero quello. Una donna ti passa accanto e anche se non lo vedi può portare un'altra creatura in sé. In fondo, Silvia concludeva amaramente, la vita è soltanto propria, nessuno può accostarvisi interamente. Se ne deve portare da sole l'orgoglio o l'umiltà. Poiché Silvia taceva, le compagne si erano distratte, avevano preso a parlare d'altro, ma Anna, che la teneva per il braccio, «È terribile, vero Silvia?» le chiese. E allora lei si scosse e disse sorridendo, «Infine, non è che una laurea!» Niente altro che una laurea. Se ne accorse all'università. Erano arrivati in anticipo e dovettero attendere, e in quel momento non sapevano che cosa dirsi. Erano come fuori di una sala operatoria, aspettando il turno. Dall'ampio finestrone entrava un mattino velato e bianco, già invernale, senza misericordia. Il sole era debole e il raggio che cadeva sul pavimento sembrava fatto di polvere. Infine si udirono scorrere gli anelli di una tenda e l'usciere fece cenno a Silvia di entrare. Ella guardò le compagne come per un addio estremo, poi scomparve oltre la porta. Le altre la seguirono, trattenendo il fiato, si lasciarono cadere sulla panca nel fondo dell'aula. Silvia, intimidita dal suo ruolo di protagonista, sorrideva, emozionata. La sua anima grave e triste traspariva nei piccoli occhi un po' strabici, in quello sguardo stonato. Sedette, aprì il fascicolo e sentì per la prima volta che quel fascicolo non era più interamente lei, ma una cosa fatta da lei che stava per essere giudicata. Scorrendo con gli occhi la tesi, le sembrò cosa meschina e sbigottì. Alle spalle immaginava gli sguardi intenti delle compagne, li sentiva aggrappati alla sua nuca e invece di darle coraggio sembravano trarla in un gorgo. Di contro, dietro il tavolo, i professori. Non riusciva a distinguerne i volti. Un solo professore, insomma. Voci le interrogarono, la sua voce rispose quasi non le appartenesse, la sentiva alzarsi nella vasta sala, tutto le appariva facile come stare ad ascoltare un'altra. Bastava tacere, appartarsi. Una grande calma era in lei. La voce da sola discuteva, ritrovava senza fatica le parole preparate nella notte e da giorni e da tempo sicura voce. Anche la voce di Belluzzi le parve sconosciuta. Capì che in quel momento nulla poteva aiutarla se non lei stessa. Nessuno avrebbe potuto accostarlesi, tutti discosti e lei sola con la sua voce che risuonava alta sotto le volte dell'aula. Mentre la voce parlava, i professori si tendevano verso Silvia, attenti, convinti. La voce non se ne sgomentava. Silvia sì, che cercava di rinchiudersi in se stessa, sperando che non la notassero, le perdonassero di essere lì, ma la sua voce, quella che veniva da tante ore di raccolto studio, di pene, di speranze, quella sì, limpida e chiara, saliva e si imponeva alle altre voci che adesso le sembravano sommesse. Quando ebbe finito, le parve di galleggiare su un'acqua straordinariamente calma, in un luminoso silenzio. Si alzò e uscì. Anche le compagne uscirono. Ricadde dietro di lei la portiera. Le ragazze le strinsero le mani, l'abbracciarono, le dissero entusiaste: brava, brava, come un'eroina. Anche Vinck era venuta, anche Andrea, e Silvia rideva nervosamente, ma era come se piangesse. Quando fu chiamata, s'affacciò esitante sulla soglia dell'aula. La luce vaga degli occhi s'era abbassata come la fiamma della candela sotto il fiato del vento. L'invitarono a farsi più avanti e lei, a piccoli passi, avanzò torcendosi le mani. Fu Belluzzi a dirle che si era laureata in lettere con 110 lode e ad esprimerle il plauso del collegio. La ragazza sorrise, Salutò appena, si volse e le parve di non giungere mai alla porta. Andrea presto le lasciò, capiva di impacciarle. Avevano bisogno di rimanere sole accanto a Silvia, come erano state in tutti quegli anni di sforzi e di fatica. Restò a guardarle allontanarsi, in mezzo a loro Emanuela così diversa, così più fine. Silvia adesso era impallidita come dopo scampato un pericolo. Uscendo dal portone dell'università, si era arrestata un attimo, aveva percorso l'androne con uno sguardo lento, affettuoso. Poi aveva detto: "È sciocco", e si era rimessa a camminare. Le ragazze ridevano, sollevate. Vinca pareva tornata una di loro. Nell'animo di Silvia, invece, era caduta una lieve malinconia da festa di ballo finita. Ormai non doveva temere più, poteva adagiarsi, incrociare le mani, aspettando. E invece mai si era sentita inappagata come ora. Pesa la gioia, pensava, e la dolcezza è amara. Bisognava telegrafare a casa, dire che era andato tutto bene, mettere fine alle novene che da mesi per il suo successo recitava la mamma. Si diffondeva in lei la soddisfazione di aver compiuto qualche cosa, ma l'opera compiuta lascia dietro di sé il vuoto dell'ansia acquetata. La laurea. Una parola che si porta via una bella fetta di vita. Peggio, come diceva Augusta, una bella fetta di giovinezza. La laurea. Niente altro che questa parola per tanti anni. Lezioni, biblioteca, odore polveroso di libri, notti di studio, fino alla notte scorsa. E la pioggia che martellava i vetri. Anche la pioggia aveva quella voce. La laurea, un'ossessione. Tutto finito ormai. Era stata cosa semplice. 110 e lode! Vivere gli avvenimenti è molto più facile che immaginarli. Le avrebbero dato una pergamena col suo nome svolazzante tra fregi rossi e oro. E adesso? Silvia? Adesso? Niente era mutato, solo quel dot che poteva mettere davanti al suo nome. Bisognava fare tutto da sé. Aveva provato questo lasciando il paese quando si trovò nel treno sola. Partì di sera. Il cielo da fosco a poco cominciò a stellarsi. Era così agitata che non chiuse occhio, le pareva di perdere, dormendo, attimi preziosi, e invece, arrivata al Grimaldi, aveva trovato che le ragazze menavano una vita normale. Studiavano, sì, ma poi mangiavano, bevevano, uscivano tranquillamente, facevano l'amore, dicevano anche qualche volta accidenti ai libri. Quasi subito divenne amica di Xenia, che come lei ardeva di diventare qualcuno e aveva il gusto del ragionare. Ripensava a tutto questo ed era rimasta un po' indietro nel gruppo, come affaticata. Le ragazze ora entravano in un caffè, poiché, come era d'uso, Silvia doveva offrire il vermut, un antico caffè della Via dei Condotti, dove negli anni scorsi gli artisti usavano riunirsi. Era deserto. Forse gli uomini hanno paura delle ombre più grandi di loro. Sedettero sui divani di velluto rosso senza prenderne possesso appieno, non avvezze a stare al caffè. Questa era per loro una festa inusitata e imbarazzante. Si diffuse una sorridente freddezza. Tutte, guardando Silvia, cercavano di ritrovare l'atmosfera consueta, ma non era possibile. Qualcosa stagnava. Erano prese da un invincibile impaccio. "Che è accaduto?" Silvia chiese, e poi insisté: "Siamo tutte stravolte, io per la prima." "Beh, niente è accaduto. È l'emozione, forse", fece Augusta. "No, io lo so di che si tratta. Non sono più delle vostre." E nonostante quelle protestassero, ella proseguì: "Lasciatemi parlare. È così. È finito. È bastato un nulla, quell'ora dell'aula, e io ho staccato la mia vita dalla vostra. Vi è fra noi una distanza enorme. Io vi guardo con rimpianto e voi con rammarico. Oh, è terribile." "Perché dici questo?" chiese Anna. "Non lo senti? Non lo vedi che non sappiamo più cosa dire? Quante sere abbiamo passato insieme? Una di noi parlava ed era la voce di tutte. Ora, se io parlo, la mia voce è distante. Io ho finito e voi attendete. Non c'è più ragione che io rimanga. Se me ne andassi sareste sollevate." "Silvia!" esclamò Emanuela. "È così. Non c'è via di mezzo. Quando Vinca lasciò il collegio, il giorno dopo già non la sentivamo più parte nostra, come il giorno prima. Confessiamolo, sì. Vinca, è così. In fondo non ti abbiamo neppure rimpianta. Perché dovresti rimpiangere me? Stasera non avrò più da mettere i miei libri accanto ai vostri, non più la mia attesa e la mia ansia. Adesso la vita non è più la nostra, è la mia. Avvenimenti potrebbero distruggermi e non toccarvi affatto. Sì, Vinca interruppe, ha ragione. Anche io ho provato questo uscendo. Si riprende la propria esistenza che si è consegnata entrando nelle mani della suora portiera. Ed è sconfortante, aggiunse, perché prova che nulla dura, nulla resiste. Come sta Luis? Le chiese Silvia dopo una pausa per mutare volutamente il discorso. Sta bene. Sta meglio. Mi ha scritto un bigliettino con la mano sinistra. Non può usare la destra ancora. Quando sarà partito, la guerra certo sarà finita e tornerà. Quando? Non lo so quando. Che importa quando tornerà? Sorrise, il suo sorriso si propagò e tutte parvero rianimarsi a quella sua pacata fiducia. Parlavano ognuna dei propri progetti, soltanto Augusta seguitava con Silvia. Tu dici bene, Silvia. La vita appartiene solamente a noi. Ormai chi tornerebbe a darla ai propri genitori? Poiché siamo capaci a viverla da sole, poiché siamo, diciamolo, ragazze intelligenti. Quante vorrebbero sciogliersi da questa responsabilità? Non capiscono che soltanto ciò che nasce da noi soddisfa. Beh, anche un figlio, fece Anna. Sì, anche un figlio. Ma il lavoro ci appartiene di più. Nessuno può togliercelo, nessuno contestarcelo. Altre preferiscono appoggiare la propria vita a quella degli altri, altre si fanno portare dal vento. Nelle pupille di Silvia luceva una radiosa gioia delle proprie conquiste. Emanuela rabbrividì, pensando che tra di loro lei era quella che si faceva portare dal vento. Chissà dove, chissà dove. Era venuto fuori il sole e prima di rientrare al collegio le ragazze andarono a goderselo alla villa. Sedettero su due panchine, beatamente. Il tardo mattino taceva. Gli alberi, magri, sembravano disegnati a matita sul grigio trasparente del cielo. Certi uccelli infreddoliti saltellavano sopra la ghiaia del viale. Sei ragazze sulla panchina. Cinque ragazze e una laureata, pensava Silvia, e dentro di sé rideva. Dolorosamente si staccava di dosso la possibilità di essere una donna come le altre. Sorrideva tra sé, pensando, donna brutta. Forse adesso avrebbe voluto cavalcare al galoppo e incontrarlo il brigante nero come lei, che prendendo le redini del cavallo le dicesse scendi e la facesse salire sul suo. Se ella gli avesse detto sono laureata in lettere, il brigante non avrebbe capito che cosa questo significava. L'avrebbe condotta al suo rifugio, le avrebbe ordinato ugualmente donna, accendi il fuoco. Avanti a loro un gruppo di bambini giocava ai soldati. Un biondo che aveva occhi azzurri fermi e decisi, portandosi avanti agli altri, disse: Non voglio. Forse non era il più bello, ma certo era un ragazzo diverso dagli altri. Sembrava gli stesse sui sopracciglia aggrottati un diverso destino. Nella destra stringeva minacciosamente un pugnaletto di legno. Gli altri, infastiditi, attendevano che gli si spiegasse. Avrebbero voluto non occuparsi di lui e tuttavia non osavano riprendere a giocare. Il ragazzo, che aveva una grande testa strana sotto i chiari capelli, insisteva: Non voglio, no, non starò nel plotone. Io devo essere quello che cammina in fuori. Se l'avessero contraddetto, certo si sarebbe allontanato, scagliando il pugnaletto in faccia al primo che gli capitava. Gli altri ragazzi lo fissarono. Egli non abbassò i duri occhi azzurri. Allora uno acconsentì e disse piano: Lui è il capitano, allora. Egli cedette la draghinassa di legno. Gli occhi del ragazzo biondo si mutarono, si sciolsero, divennero affettuosi. Egli guardò, sorridendo, gli amici, li abbracciò con uno sguardo limpido e molle. Aveva lunghe gambe snelle e con un passo fu fuori dal plotone. Attenti! Schioccò duramente. Marsch! Poi prese Baldo a camminare e gli altri lo seguirono. Tacevano le ragazze impigrite. Ecco, Silvia pensava, bisogna saper essere quello che cammina in fuori. Non starò nel plotone, nel branco. Le donne spesso si lasciano ammansire dai sensi o dalla poca fiducia che hanno di se stesse. Altre si allontanano dall'amore con ribrezzo, come Augusta, senza sforzo. Difficile allontanarsi da ciò che piace. In certe ore molli di primavera il lavoro pesa, non si può più continuare, tutto dentro di noi è inerte, languido, disposto ad acconsentire. Odora forte il caprifoglio, un odore che fa male alla testa e stridono le rondini, l'impazzia. Il giorno indugia. Allora al paese le donne si siedono sulle soglie delle case e attendono l'uomo che ritorni dai campi. Ogni poco, la mano alla fronte, spiano sulla strada. Le zanne dondolano e certe sommesse ninne nanne inteneriscono il cuore. È allora che inconsciamente Silvia attende il richiamo del brigante dall'alto della collina. Bisogna chiudere gli occhi sulla stagione, non vedere, non udire. No, non accenderò il tuo fuoco, brigante. Me ne andrò sola per la montagna, in cerca di una grotta tutta mia. Al collegio, la suora portiera disse a Emanuela, nel vederla rientrare con Silvia e le altre: salga dalla madre, lei deve parlarle. A me? Sì, a lei. Emanuela restò perplessa. Era inutile salire. La madre doveva aver saputo tutto di Stefania, si capiva. L'avrebbero scacciata. Che vergogna. Perché salire? D'istinto si volse per fuggire come una ladra che non ha più scampo e getta la sedia sulla lampada elettrica. Ma la porta era chiusa. La chiave penzolava alla cintola della suora portiera e lei salì. La madre si levò dalla poltrona per andarle incontro e il suo sguardo era così benigno e doloroso che Manuela si rassicurò. Non sa nulla. Ah! C'è un telegramma per te, Emanuela. È necessario che tu parta subito. Tuo padre sta male. Emanuela ripeté soffocata. Papà! Sì, papà. Il treno delle 14:15 per Firenze è rapido. Neppure pianse Emanuela. Andava ripetendo a bassa voce, sordamente: papà, papà, papà! Vide le compagne farsi attorno a lei, circondarla, prepararle la valigia. Silvia non l'abbandonava e Augusta la teneva per il braccio con l'aspetto delle grandi occasioni. Papà, papà! Telefonarono ad Andrea. Andrea l'accompagnò alla stazione. Papà! Oh, papà! L'ansima del treno e il rumore degli stantuffi sembravano ripetere quelle due sillabe infantili che le scrollavano il petto come un singhiozzo. Papà! Papà! E la fretta di raggiungerlo, papà! E la sensazione, il rammarico di non aver mai fatto nulla per dargli un po' di gioia, di non avergli mai permesso di accostarsi alla sua anima, di essergli rimasta sempre sconosciuta, così chiusa e ostile, anzi indifferente. Papà, papà! Mai lo aveva accompagnato fuori a passeggio, mai era rimasta a leggere vicino a lui, a goderselo, che ormai era vecchio. Papà, papà! E solo di lui aveva ricordato i rari castighi, le durezze e quelle poche volte che l'aveva rimproverata. Mai i suoi perdoni aveva ricordato. Faceva apposta a trattarlo così, come un estraneo. Papà che faceva tanto per lei, che voleva ricostruire la vita, accettava tutto come dovutole. Non era egli il padre? Lo teneva a distanza dalla nuova generazione, chiusa nel suo egoismo. Lei gli aveva dato un po' di pace. Mai gli aveva detto: papà, sono felice. Sempre scontenta. Buongiorno, buonasera. Solo adesso che era malato lo capiva. E il treno che la sbatteva di qua e di là, le sbatteva anche quella parola nel petto: papà, papà. E l'ansia di tutte quelle cose che in 25 anni mai aveva fatto, mai aveva voluto dirgli e che adesso finalmente gli avrebbe detto. Non gliele disse. Papà era morto di colpo la notte. Se n'era andato portando con sé il silenzio di lei e l'indifferenza. Altro non avrebbe saputo mai. Emanuela si trovò proprietaria di una grande fortuna, non immaginava tanto. E mentre il notaio leggeva il testamento, la ragazza di tratto si volgeva alla madre, rimpicciolita dai veli neri, e s'accorgeva che neanche lei sapeva di essere così ricca. Nell'ultimo viaggio papà cercava di risparmiare sugli alberghi e sulla benzina. Chissà perché papà non aveva mai speso di più nella vita. non soltanto per lasciare un bel patrimonio dietro di lui. La figlia comprese che l'essere più ricco non avrebbe potuto dargli una gioia maggiore. Prendeva quanto gli bastava. Il resto non gli interessava. Il denaro s'accumulava. Ricchissima era. Ma alla fine del testamento c'era la clausola. Il tutto è vincolato a mia nipote Stefania e agli altri futuri discendenti di mia figlia. Le due donne restarono in silenzio. Il notaio sembrava non meravigliarsi, sapeva tutto. Parve ad Emanuela che il padre le mettesse la bambina tra le braccia. Gli occhi colmi di pianto, chinò la testa, accettando.